Oggi analizziamo i personaggi di Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso è una bambina inaffidabile, disubbidiente, chiacchierona. Anche se avvisata, si mette a parlare con un lupo invadente e puzzone, mettendo in pericolo se stessa, la nonna e il cestino dei dolci. La mamma di Cappuccetto Rosso, d'altra parte, dovrebbe essere segnalata ai servizi sociali, visto che non si fa scrupoli a mandarla figlioletta in un bosco infestato di lupi. Magari voleva liberarsi della figlia citrulla. Il lupo è un personaggio perfido. Con questa sua mania di mangiarsi le persone, ha instillato in ogni bambino una paura furibonda verso qualsiasi animale abbia dei canini o un po' di pelo. Che dire poi della nonna? Tipica vecchietta rimbambita ed esigente, non riesce a distinguere la nipotina da una bestia pelosa travestita da infante e non si rassegna neppure a prendere una rumena o ad andare all'ospizio. Il cacciatore, infine, è l'uomo tutto d'un pezzo. Di quelli di una volta, taciturno e baffuto, capisce tutto al volo e risolve la situazione a virili colpi d'ascia. Sì, ti ritrovi con un lupo sventrato sul tappeto del salotto, ma con due patate in forno viene bene. Quali conclusioni possiamo trarre da questa fiaba? I personaggi femminili sono ingenui e non fanno che combinar pasticci. Quelli non umani sono malvagi e in fondo stupidi. Il personaggio maschile è l'unico veramente intelligente e risoluto, anche se è sudaticcio e puzza di selvaggina, come ogni vero uomo.